24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegatta, un nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Intesa raggiunta fra Francia e Germania sulla necessità di riformare i trattati costitutivi europei e sul modo di procedere a riguardo. Il nuovo trattato, ha spiegato Sarkozy, sarà aperto a tutti i 27 paesi dell'Unione. La Grecia, ha aggiunto la Merkel, rimarrà un caso eccezionale. A questo scopo contribuiranno le nuove regole che imporranno maggiore rigore a tutti. Germania e Francia hanno raggiunto un accordo sul cambiamento dei trattati europei. I dettagli saranno noti solo mercoledì, contenuti in una lettera al Presidente del Consiglio Van Rompuy, ma le grandi linee sono state illustrate dalla Cancelliera Merkel e dal Presidente Sarkozy al termine del loro incontro all'Eliseo. Parigi ha ceduto sull'automatismo delle sanzioni sugli Eurobond, per ora da escludere. Berlino ha fatto un passo avanti sui creditori privati, che avranno la garanzia di non perdere più un euro sui debiti sovrani di un paese dell'Eurozona, e sull'accordo di giustizia europea, che potrà pronunciarsi sulle regole d'oro costituzionali, ma non sul budget. Il nuovo trattato dovrebbe vedere la luce in marzo e, in caso di disaccordo da parte di qualche paese dell'Unione non aderente alla moneta unica, potrebbe inizialmente limitarsi ai 17 membri dell'Eurozona. La decisione verrà presa venerdì, al termine del Consiglio di Bruxelles. Marco Mussanè, Radio 24, Sole 24 Ore, Parigi. Sul fronte italiano sentiamo da Roberta Miraglia, della redazione esteri del Sole 24 Ore, cosa hanno scritto i giornali esteri sulla manovra del governo che ieri Mario Monti ha presentato in Parlamento. Governo tecnico alla prova della politica. I giudizi della stampa estera sulla manovra Monti convergono nel definire dure le misure adottate domenica, ma sottolineano anche il rischio che la manovra si impantani nei veti incrociati di partiti e parti sociali. Il Financial Times parla di misure di austerità e riforme economiche e ricorda che con esse si è iniziata una settimana cruciale per il futuro dell'Europa. L'americano New York Times definisce il pacchetto radicale e ambizioso e proprio per questo si chiede fino a che punto riuscirà ad avere l'appoggio del Parlamento, dove si legge: molti parlamentari sono riluttanti a far passare provvedimenti che potrebbero mettere a rischio le loro possibilità di rielezione. Anche il Wall Street Journal sostiene che il Premier non ha davanti un compito facile perché, scrive il quotidiano economico americano, i partiti politici italiani sono profondamente divisi sulle ricette per condurre il paese fuori dalle secche e i sindacati potenti sono fortemente contrari a ogni radicale cambiamento del sistema pensionistico. Il francese Le Figaro, che ha il video con i singhiozzi del ministro Elsa Fornero, scrive che il piano di Monti presenta un largo ventaglio di misure che toccano tutti i settori, mentre El País dedica al premier un commento dal titolo «Il maestro della paura». Monti, sostiene il quotidiano vicino al Partito Socialista Spagnolo, è uno specialista nel maneggiare la paura alla perfezione e si legge: senza alzare il tono di voce, il capo dei tecnocrati riesce a instillare nella coscienza generale un dilemma: o io o il caos. La paura, conclude El País, sapientemente maneggiata, si è trasformata ieri in un poderoso antidoto contro qualsiasi protesta. Tutte positive le borse europee, Milano la migliore. La presentazione della manovra economica del governo Monti e le speranze sul fronte della crisi europea del debito hanno messo le ali a Piazza Affari. Il listino milanese ha vissuto una giornata da maglia rosa, guadagnando il 2,74% sul FTSE All Share e il 2,91% sul FTSE MIB. In prima fila le banche, galvanizzate dal drastico ridimensionamento dello spread tra i rendimenti di BTP e Bund, calato del 17% a 375 punti base. Il Banco Popolare è volato così a più 11,6%, MPS a più 10,7% e BPM a più 7,3%. Bene anche le Big Unicredit, salita del 5,4%, e Intesa San Paolo più 3,8%. Al di fuori del comparto si è messa in luce Finmeccanica più 9,8%, mentre si spengono le manovre speculative legate all'uscita del Presidente Pier Francesco Guarguaglini. Dei 40 titoli del FTSE MIB ha chiuso in rosso soltanto ST Microelectronics, meno 0,97%, penalizzata dal taglio del giudizio degli analisti di Natixis. Paolo Paronetto da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore. Aiuti a Kabul fino al 2024 è l'annuncio dato dalla comunità internazionale che, 10 anni dopo la prima conferenza, si è ritrovata di nuovo nell'ex capitale tedesca, a Bonn, per fare il punto sull'Afghanistan. Assente uno stato chiave, il Pakistan. Il commento di Alberto Negri del Sole 24 Ore. Come in 10 anni non vincere una guerra e soprattutto cosa fare nel 2014 quando ci sarà il ritiro del contingente della NATO? La conferenza internazionale sull'Afghanistan aperta a Bonn dovrebbe rispondere a questi due interrogativi sullo sfondo di una crisi in cui gli Stati Uniti e l'Europa, nonostante le dichiarazioni di buona volontà, non potranno dare al presidente Hamid Karzai quello che vorrebbe. Ma l'aspetto più significativo è l'assenza del Pakistan, il paese chiave ai cui confini ci sono i santuari della guerriglia. Senza il Pakistan non è possibile avviare una trattativa neppure tra Kabul e i talebani. Certo, in Afghanistan, dove l'Italia ha schierato 4.000 soldati, ci sono stati dei progressi, ma lo slogan della conferenza, dalla transizione alla trasformazione, appare un po' ambizioso, destinato soprattutto a uno slogan. Si profila una proroga di un mese e mezzo all'Italia per l'emergenza rifiuti in Campania, invece dei 2 mesi inizialmente previsti, è l'ipotesi cui si starebbe lavorando a Bruxelles. La decisione comunque dovrebbe essere assunta nella giornata di oggi. A Bruxelles le cose si fanno in orario e per tempo, sono efficienti, non arrivano troppo presto e nemmeno in ritardo. I relatori hanno un quarto d'ora per le relazioni, i giornalisti, siamo una decina di tutta Europa, altrettanto per le domande. Giusto al commissario europeo per l'ambiente Potocnik si concede di più e poi tutti a casa, non si ciondola nei corridoi. Così scrivo all'aeroporto dove sono efficientemente arrivata con 4 ore di anticipo. Si esce un po' disorientati da incontri così, del resto abbiamo subito 4 iniezioni europee di efficienza delle risorse, forse più un'altra di efficienza organizzativa, almeno io. Ha aperto le danze Michel Sponer, funzionario della Commissione Ambiente. Una slide via l'altra mostra chi va e chi non va nella gestione dei rifiuti. Il grafico è chiaro, l'Italia non va molto. Le stanno davanti i soliti ed è seguita dai soliti, ma ha troppe discariche ed inceneritori, che ormai l'Europa non vuole più. Sono troppi, dice Sponer. Ora l'accento va messo su differenziata, riciclo e riuso. Al collega bulgaro, rappresentante degli ultimi in classifica, dice chiaro e sorridente: useremo il bastone e la carota, possiamo fornire competenze e fondi, altrimenti le sanzioni non ve le leva nessuno. E com'è allora che a Napoli le avete sospese, chiedo? Non saprei, dice, bisogna chiedere all'ufficio legale. Poi tocca all'efficienza nell'uso della risorsa idrica, per ora un progetto, quindi alle competenze dei cittadini europei in tema di efficienza, che pare siano scarse ovunque. Allora stabilita entra il commissario Potocnik. Galoppa veloce tra le slide, presenta il suo piano di un'Europa che si risolleva grazie all'intelligente sfruttamento delle risorse. Acqua, rifiuti, terra, energia, natura, agricoltura, allevamento, nulla gli sfugge. La ricetta Potocnik, che nasce economista, sembra davvero poter salvare ambiente ed economia, almeno nei 3 settori che il commissario ritiene determinanti: mobilità, edilizia e produzione del cibo. Già domanda però un collega austriaco: quanto crede siano efficienti le ecopolitiche nazionali? E incalza il greco: bisogna vedere cosa faranno i paesi in via di sviluppo. Credevo ti riferissi a noi, butto lì tanto per scherzare. Potocnik ride e poi si fa serio. Ignorare le direttive europee in materia ambientale può costare caro, ho come l'impressione che si riferisca a Napoli. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore, Bruxelles. Sassofonista Francesco Bearzatti, il migliore musicista europeo del 2011. A nominarlo è stata l'Académie du Jazz Français. La consegna del premio avverrà l'11 gennaio prossimo a Parigi. Il premio miglior musicista europeo è uno dei più prestigiosi riconoscimenti del jazz mondiale. Bearzatti è il secondo italiano ad ottenerlo dopo Franco D'Andrea, vincitore nel 2010. Sentiamo Francesco Bearzatti al microfono di Adriana Fracchia. Mi ha molto sorpreso, devo dire la verità. È vero che in Francia stavo facendo delle cose importanti ultimamente, comunque c'era abbastanza attenzione su di me, però non mi aspettavo una notizia del genere, anche perché è un premio che danno in genere alle persone che hanno una carriera lunga alle spalle, quindi anche un'età che passa ai 60, addirittura l'ultimo che ha vinto aveva 70 anni, quindi insomma per me è stata una notizia inaspettata, però chiaramente molto piacevole, ovvio. non sono un ragazzo, però nel mondo del jazz, 45 anni, uno ancora viene considerato a volte il giovane promettente, quindi insomma mi fa piacere, ecco. 10 anni fa, quando io mi sono trasferito qua, sono stato subito ingaggiato dai numeri uno, e poi in Italia sono accorto di me, ah, ma se Berzatti suona con questi, allora... E quindi ho avuto anche un po' un riscontro molto forte anche in Italia. Quindi anche lei è un cervello in fuga, praticamente. Mi ringrazio. Diciamo che sì, un po' sì. Nessun rimpianto? Però rimpianto no, anzi io sono contentissimo di essere a Parigi, perché Parigi e la Francia sono sempre stati rifugio per gli artisti. È tutto per questa edizione di 24 ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi in regia, e voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet.